Tornato come inglesismo, partner deriva dal latino pars, la parte, il risultato di una divisione. Nel 1931 Panzini già notava che, nonostante l'autarchia linguistica del fascismo, era da gente elegante dire partner per designare uno dei due membri di una coppia. Ovvio allora che il termine oggi circoli nelle comunicazioni ben carico di valore. Così anche la Cisalpina Gestioni si presenta al mondo come partner ideale di chi investe in fondi, e per convincere tutti noi ad affidargli i nostri sudati risparmi affida i propri meno sudati risparmi ad una campagna pubblicitaria che vorrebbe mostrarci tutta l'importanza di un membro della coppia. Ne prende tre di coppie storiche, datate quanto basta per rivolgersi a chi, avendo l'età, ha più probabilità di avere quattrini in banca. Tre coppie piuttosto disomogenee, peraltro, perché una attinge ai telefilm degli anni 50, l'altra alla letteratura ottocentesca e l'altra al cinema di prima della guerra, sostanzialmente. Cosa sarebbe stato, dice il primo manifesto, Rin Tin Tin senza Rusty? La risposta è nell'immagine di un cagnone triste e avvilito accovacciato innanzi alla sua casetta, su cui impietosamente qualcuno ha scritto Rinco, che comincia come Rin Tin Tin ma finisce con una metafora amputatoria in virtù della quale gli attributi sessuali maschili non esprimerebbero, diciamo così, il massimo dell'intelligenza. Cosa sarebbe stato Pinocchio senza Geppetto? Si domanda il secondo. E l'immagine, non potendo contare su un Geppetto stereotipato a sufficienza per garantire l'universale riconoscimento, rappresenta un mestolo di legno appeso più o meno in un ambiente da cucina. Cosa sarebbe stato Stanlio senza Ollio? Si domanda infine il terzo manifesto. E l'immagine ci consegna uno Stanlio in poltrona, succube della televisione, grassoccio, in pigiama, che americanamente si abbuffa di popcorn. Tre destini impietosi di chi non ha incontrato il partner giusto, secondo quel determinismo del senno di poi in grazia del quale la scelta, chiunque la faccia, non è mai sbagliata. Il destino era bello che scritto in due versioni: quella con il partner luminoso, quella senza, cupo e inappellabile, senza speranza, come colui che attende il fiore della spidistra. L'argomentazione è ruvida, piuttosto brusca, ma sono anche disposto ad ammettere che presso un pubblico che ami ancora attingere al repertorio narrativo del feuilleton popolare possa anche funzionare. Chi ha soldi da mettere in fondi, d'altronde, è probabile che sulla base di una cultura che non disdegna di aver sentito nominare Pinocchio e giunga fino alle vette di Stanlio Ollio o di Rin Tin Tin, riesca a giudicare il modo con cui questi soldi ha accumulato in termini di rigido e consolatorio determinismo. Il determinismo del senno di poi, con cui, per l'appunto, quando le cose vanno bene, si ritiene opportuno assegnarsene i meriti. Il principio secondo il quale colui di cui si parla è ovviamente quello rappresentato nel manifesto va tenuto presente per la decodificazione di tutt'altra serie di manifesti. C'è scritto: un dovere assoluto, aiutare chi è rimasto indietro. E c'è la faccia di Berlusconi, uno da aiutare. Scolasticamente si potrebbe dire che è l'esempio tipico di uno che è rimasto indietro praticamente in tutte le materie, tanto che quando si lancia in una campagna nel sociale sembra più o meno ancora al ventennio. Si prenda ora allora questa seconda serie di manifesti e la si coniughi con la prima, quella in cui il successo nella vita è direttamente proporzionato all'entità valoriale del partner. Si prenda e si coniughi. Non so voi, ma a me ne risulterebbe una domanda. Cosa sarebbe stato Berlusconi senza Craxi? L'immagine del manifesto eventuale la lascio alla fantasia degli ascoltatori, diciamo che è un invito. Fateci pervenire i vostri migliori risultati, sarà l'occasione per tastare il polso all'immaginario sociologico e sotto forma di disegno, di collage o di semplice descrizione verbale potrebbero costituire le prime pagine di un diario di opposizione alla prossima campagna elettorale. Is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the night.